queste foglie è il castigo che Dio non voglia, è il grido che muore in gola, è la folla sempre più sola, è il bimbo che manovra il cannone, è il generale che muove l'aquilone, è il poeta che sa far di conto, è il politico che si fonte il mondo, è il giornalista che si intervista, è il soldo che corrompe l'artista, è la fine di quel poco che resta, è il rogo della vespa. Stantie, è la fine delle buone intenzioni, è la fine delle rivoluzioni, è la fine di quel poco che resta, è il rogo della vespa. Terza parte di Rock Legends, sempre Gianluca al microfono, lo ricordo, ospite il cantautore rock veronese Ruben. Ascolteremo ora i brani del nuovo disco Il Rogo della Vespa, come ad esempio il primo titolo Il Rogo della Vespa. Ecco la title track. Tua esperienza in sala di incisione con i tuoi collaboratori, come senti di aver lavorato questa volta? Diciamo che rispetto al disco precedente, Da qui non si vedono le stelle, in questo caso abbiamo studiato un po' di più, nel senso che ci siamo presi il tempo di riflettere sulle cose. Da questo punto di vista forse è un disco un po' meno immediato, un po' più riflessivo, pensato, esatto. Qual è il titolo della prossima? La prossima è Dare e Avere, che sarà il nuovo singolo che lancerà un po' il disco. Conti sul